Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. Ben ritrovati a Olimpia. Il giorno della memoria è ormai alle porte, allora gli dei dello sport ci chiedono di ritornare col cuore e col pensiero ai giorni della persecuzione nazista, per raccontare le storie di chi a quell'orrore seppe opporsi, di chi a quell'orrore seppe dire no. Partiremo da Berlino nel 1936, da quei giochi che avrebbero dovuto esaltare il Terzo Reich e che invece esaltarono il mito di un velocista americano nero straordinario, Jesse Owens. E poi andremo in Austria per vivere insieme la carriera e la parabola umana gloriosa e dolente di un grande campione del calcio austriaco e mondiale, Matthias Sindelar. Cominciamo subito, andiamo allora a Berlino, in quei giorni dell'agosto del 1936. Berlino, stadio olimpico, 1 agosto 1936. Adolf Hitler, Führer del popolo tedesco e guida del nazionalsocialismo, dà inizio ufficialmente all'undicesima edizione dei Giochi Olimpici. La macchina propagandistica del regime è già in moto da tempo. Goebbels, ministro della propaganda, ha affidato alla giovane cineasta Leni Riefenstahl il compito di realizzare il film dei giochi. Si chiamerà Olimpia e diventerà un capolavoro della filmografia mondiale. Questa è la scena che si presenta agli occhi di Marty Glickman, 18enne velocista ebreo della squadra americana di atletica leggera. The Olympic Stadium itself is a very impressive place. It was particularly impressive then with filled with 120,000 people. Lo stadio olimpico era già di per sé un posto impressionante. Lo era ancora di più stipato da 120.000 persone. Quando Hitler entrò nello stadio, tutti si alzarono, tutti a gridare insieme Sieg Heil, Sieg Heil, tutti insieme. Questo grido enorme lo potevi sentire rimbombare per tutto lo stadio. Ognuno sembrava vestito in uniforme. E poi gli stemmi e le bandiere erano da ogni parte e la svastica dominava dappertutto. Praticamente su ogni manifesto o stemma che potevamo vedere c'era una svastica. Ma era il 1936, era prima che conoscessimo veramente cosa volesse dire una svastica. La comunità internazionale si è a lungo interrogata sull'opportunità di partecipare a giochi olimpici organizzati da un regime che già ha più volte mostrato il suo volto più crudele. Alla fine, però, interessi di parte e cinismo hanno la meglio, come spiega Laura Fontana, responsabile per l'Italia del Memorial de la Shoah. Hitler sale al potere il 30 gennaio 1933, due mesi dopo già ad esempio gli ebrei vengono espulsi da tutti i club sportivi, da tutte le squadre nazionali, e questa notizia è una notizia che si sa perché viene pubblicata poi a mezzo stampa, non era una notizia segreta, e quindi inizia subito una mobilitazione generale soprattutto negli Stati Uniti. C'è anche una proposta di boicottare le Olimpiadi di Berlino, di fare delle Olimpiadi alternative a Barcellona, che trova molti consensi, ma che poi invece naufraga un po', perché in Spagna, come sappiamo, scoppia la guerra, quindi questa edizione si ferma, e un po' perché quando vanno a contare i voti si vede che prevale, diciamo, la logica pragmatica di salvare l'edizione di Berlino. Leggevo ad esempio alcune lettere in cui si riuniscono i membri del Comitato Olimpico e iniziano a dire: sì, vabbè, ma nell'edizione del 32 a Los Angeles, di fatto, quanti atleti ebrei hanno partecipato? 4, 5, cioè, come dire, in fondo la situazione è minima, perché tanto stiamo parlando di un fatto che riguarda pochissime persone. Gretel Bergmann allora era una giovane ebrea, promessa della nazionale tedesca di atletica leggera nel salto in alto. I was supposed to be a member of the German Olympic team. Venivo considerata come un membro del team olimpico tedesco ed era qualcosa che non riuscivo a capire. E non riuscii a capirlo per parecchio tempo. L'unica ragione per cui venivo considerata membro della squadra era perché americani, inglesi, francesi e molte altre nazioni avevano minacciato di non prendere parte ai giochi del 1936 a causa della discriminazione nei confronti degli ebrei. Ad ogni modo, Continuavo a sperare di far parte della squadra olimpica, perché essere in gara alle Olimpiadi è un'emozione per tutta la vita. D'altra parte ero così spaventata al pensiero che avrei vinto, ed ero convinta di poter vincere una medaglia, possibilmente d'oro. Che cosa avrei dovuto fare? Sarei dovuta salire sul podio e gridare Heil Hitler, come tutti gli altri? Non volevano lasciarmi far parte della squadra olimpica tedesca. E allora dissero, bene, lei non ha titoli per gareggiare, perché non è affiliata alla Federazione d'Atletica Leggera Tedesca. Perché non ero affiliata. Perché ero ebrea. Le altre ragazze che erano in corsa per partecipare ai giochi si incontravano tra di loro ed io venivo regolarmente esclusa. Quando gareggiammo insieme, e non capitò più di 3 volte in 3 anni, le ho sempre battute. Il salto in alto alle Olimpiadi venne vinto con una misura che io avevo già superato appena 4 settimane prima. Vi fu una sola eccezione a confermare la tragica regola della discriminazione. Ancora Laura Fontana. Alla fine si arriva a porre a Hitler una condizione, quindi una prova di buona volontà, gli si dice a Führer, accetti almeno un atleta ebreo nella squadra tedesca. E quindi il regime, che ha già promulgato le leggi di Norimberga, in cui ha stabilito che è ebreo anche uno che ha solamente un nonno ebreo, quindi con una cavillosità assoluta, trova un'ebrea, quindi una donna, che possa andare bene, una certa Helena Mayer, che era campionessa mondiale di fioretto, aveva vinto le Olimpiadi, la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Amsterdam, è ebrea da parte di padre, quindi una mezza ebrea, è bionda, bella, quindi riescono a spacciarla quasi come un'ariana e fanno partecipare questa Helena Mayer, che nel frattempo è già scappata perché la sua famiglia è già stata insomma pesantemente discriminata, la fanno tornare minacciandola di rappresaglie nei confronti della sua famiglia, la obbligano a gareggiare, lei vince la medaglia d'argento, non la medaglia d'oro, e questa Helena Mayer fa addirittura il saluto nazista. Und nun noch einmal Jesse Owens. 8,6 meter! Lo scacco più grande per il Terzo Reich sarebbe poi arrivato proprio da un non ariano, un 23enne di colore di Oakville, Alabama, Jesse Owens. Il ragazzo arriva a Berlino forte dell'impresa di un anno prima, quando ad Ann Arbor ha abbattuto 3 record del mondo in poco più di un'ora, nei 100 metri, nei 200 e nel salto in lungo. Owens è sereno e ottimista, come spiega in questa rara intervista rilasciata alla radio tedesca alla vigilia dei giochi. Mr. Owens, how do you like the Olympic Village? Cosa ne pensa del villaggio olimpico? Il villaggio olimpico, beh, per me è veramente una delle 7 meraviglie del mondo. E del cibo che ne pensa? Beh, mangiamo all'americana, abbiamo cuochi americani che cucinano molto bene, secondo il nostro stile. Il suo allenatore sostiene che la pista d'atletica dello stadio è un po' troppo stretta. Per lei è sufficiente? È molto simile a quella che utilizziamo negli Stati Uniti, anche se il fondo è diverso, è un po' più sabbioso di quelli che utilizziamo a casa. Pensa che questa settimana sia un tempo sufficiente per i vostri allenamenti? Preoccupato dal maltempo? Penso proprio che per il team olimpico americano il tempo sia più che sufficiente, per il semplice fatto che abbiamo già avuto 2 turni preliminari di selezione nel nostro paese. Quello che svolgeremo qui, in Germania, sarà quindi un allenamento leggero. La parte più pesante l'abbiamo già fatta, per questo non sono preoccupato della pioggia, che magari ci farà saltare qualche allenamento. Quante medaglie spera di vincere? Desidero intensamente vincere ai Giochi Olimpici e spero di conquistare 3 medaglie d'oro. Parteciperò a 3 eventi e spero di vincere 3 ore, nei 100 metri, nei 200 metri e nel salto in lungo. Gold medaglie più America! Alla fine gli ori di Jesse Owens saranno ben 4. Ai 3 previsti si aggiungerà quello nella staffetta 4%. Un oro segnato, però, dalla volontà dei dirigenti della squadra americana di non urtare troppo la sensibilità di Hitler. Uno zelo che portò alla più che sospetta esclusione degli unici 2 atleti ebrei della squadra statunitense, Sam Stoller e Martin Glickman, che racconta così quei momenti. The event I was supposed to run the 400 meter relay La gara a cui pensavo di partecipare, la staffetta 4%, era uno degli ultimi appuntamenti previsti dal programma dell'atletica leggera. La mattina del giorno in cui pensavamo di correre le batterie, noi sette sprinter venimmo chiamati per un incontro con Dean Cromwell, l'assistente allenatore di atletica, e Lawson Robertson, il capo allenatore. Robertson ci annunciò che aveva avuto delle informazioni sul fatto che i tedeschi, fino a quel punto, avevano risparmiato i loro velocisti migliori, proprio per sorprendere la nostra squadra nella staffetta. Di conseguenza, Sam Stoller ed io saremmo stati sostituiti da Jesse Owens e Ralph Metcalf. Noi fummo scioccati. Sam era completamente stravolto. Non disse una parola nell'incontro. Io ero uno sfacciato ragazzo di appena 18 anni e dissi: «Coach, nessuno terrebbe nascosti i velocisti di classe mondiale». E a quel punto Jesse Owens parlò e disse: «Coach, ho già vinto 3 medaglie d'oro nei 100, 200 e nel salto in lungo. Sono stanco. Ho avuto quello che volevo. Lascia correre Marty e Sam. Lo meritano». Ma Cromwell gli puntò il dito contro e gli disse: «Tu farai quello che ti sarà detto». A quei tempi, gli atleti di colore facevano quello che gli ordinavano. E Jesse restò in silenzio dopo quell'ordine. E anche la gloria olimpica di Owens dovrà scontrarsi con le barriere alzate dalla discriminazione razziale. Jesse Owens rientra trionfatore in patria, il presidente americano Roosevelt riceverà alla Casa Bianca tutti gli atleti olimpici statunitensi, tranne i 4 neri. Quindi una doppia discriminazione subita da questi atleti, e spesso ci si dimentica che non c'è stato solo il regime nazista, insomma, considerare in maniera dispregiativa i neri, ma anche gli stessi Stati Uniti, dove sappiamo che questi atleti poi dovevano addirittura alloggiare e mangiare separatamente dagli altri compagni di squadra. Lo stesso Jesse Owens fu costretto a pagarsi di tasca propria le scarpe per correre, perché la federazione non gli aveva assegnato un budget necessario per la sua attrezzatura. All'ipocrisia ammantata di ideali vuoti di fronte alla barbarie e alla folle corsa per una medaglia, sopravvivono ancora oggi nella memoria i gesti di chi seppe dire no in nome di lealtà e amicizia, queste sì figlie del più puro spirito di Olimpia. Jesse Owens vince una di queste medaglie con il salto in lungo e vince quello che era il favorito assoluto dell'epoca, un certo Lutz Long, un ragazzo tedesco che era appunto campione in Germania di salto in lungo, il quale gli aveva dato addirittura un consiglio di come saltare, gli dà un prezioso consiglio in base al quale Owens appunto si aggiudica poi la medaglia. Appena Owens vince la gara, questo Lutz Long, anche lui bello, biondo, proprio l'immagine in persona della propaganda ariana, si alza davanti a tutti, davanti alle televisioni, perché c'erano già le televisioni all'epoca, lo abbraccia, gli prende il braccio destro e lo innalza in segno di vittoria. Un gesto assolutamente condannato chiaramente dal regime, che lui pagherà tra l'altro, perché quello che non si sa è che quando poi scoppia la Seconda Guerra Mondiale i campioni olimpici tedeschi vengono protetti dal regime, cioè non vengono mandati al fronte. Questo ragazzo ad esempio verrà poi mandato al fronte e corrisponde tutta la sua breve vita, perché poi morirà in guerra in Italia, corrisponde con Jesse Owens e gli scrive lettere bellissime sull'amicizia, sul valore dello sport. Olimpia, miti e verità dello sport. Il 9 aprile, vigilia del plebiscito nazionale, veniva proclamato il giorno del grande Reich tedesco. Allora le campane delle chiese suonavano a festa, ruggivano le sirene delle fabbriche, mentre il traffico si fermava per 2 minuti per segnare il solenne momento. La partita Italia-Austria accende negli azzurri anche una volontà di risurrezione. Entrano le squadre in campo, l'attesa è vivissima. Lo chiamavano Cartavelina Matthias Sindelar per la leggerezza delle sue finte e del suo dribbling ubriacante. O il Mozart del pallone, visto che proprio lui era il centravanti della grande nazionale austriaca degli anni 30, il Wunder Team, la squadra delle meraviglie, cancellato dall'annessione dell'Austria alla Germania nazista nel 1938.